Quello che dice oggi il nostro rapporto trimestrale è che c'è delle previsioni al rialzo per la crescita globale, prevalentemente dovute a più forti prospettive di crescita in Giappone e nelle economie cosiddette BRIC, cioè Brasile, Russia, India e Cina. Gli Stati Uniti, l'Euroarea e il Regno Unito sono invece rimasti in linea con le previsioni precedenti, quindi la notizia positiva è che c'è un rialzo delle previsioni di crescita a livello globale, quindi includendo tutti i paesi e anche le economie dei cosiddetti paesi BRIC. Poi all'interno di questo dei vari paesi ci sono dei paesi che crescono di più e altri che crescono di meno. La crescita nell'euroarea è quella minore e soprattutto non ci sono per il momento sorprese in positivo rispetto alle attese, e pensiamo che l'effetto del contemporaneo restringimento delle politiche fiscali in tutti i paesi europei, ancorché abbia l'impatto maggiore nell'anno prossimo, continuerà a mantenere questi tassi di crescita relativamente più bassi rispetto agli altri paesi.